E allora, buonasera, buonasera, benvenuti, benvenute a tutte e a tutti all'ascolto, fratelli e sorelle, compagni e compagne all'ascolto. Questa qui è Radio Onda Rossa, oggi è lunedì e come al solito a quest'ora comincia Entropia Massima. In questa versione di Entropia Massima siamo nella fase antropologica e quindi adesso, prima di passare la parola a chi conduce con maestria e dovizia questa sezione di Entropia Massima, vi ricordo che state ascoltando gli 87.9 in modulazione di frequenza per chi ci ascolta da Roma e provincia, a qualcuno ci ascolta finalmente anche da Terni attraverso il Digital Audio Broadcasting, cioè il DAB, Onda Rossa credo che sia il nome, sicuramente sul DAB, e infine c'è chi ci può ascoltare da tutto il mondo attraverso il nostro sito ondarossa.info. Lo ricordiamo all'inizio, lo ricordiamo alla fine, proprio attraverso ondarossa.info è il canale migliore, ondarossa.info, per individuare tutte le modalità per sostenere questa radio che trasmette da 47 anni senza padroni e senza pubblicità. Appunto, aprendo la pagina si individua immediatamente le varie modalità per sostenerci in questo momento, in particolare il radioabbonamento DigiRoar. Eccolo qui, adesso passo la parola a Miriam e io mi taccio. Grazie Lorenzo, allora benvenuta a tutte e tutti. Io sono sempre Miriam, sono un'antropologa e questo è niente poco di meno che il settimo appuntamento con Antropologica. Per, come sempre, chi avesse perso la trasmissione del 29 aprile la può trovare sul podcast su ondarossa.info. L'antropologia che incontriamo oggi, in continuità con quella di cui abbiamo parlato la scorsa puntata, è dedicata alla violenza ostetrica e riproduttiva sulle donne migranti, e ne parliamo proprio oggi con Chiara Quagliariello, che è antropologa, ricercatrice e docente universitaria. Nell'ultima trasmissione le colleghe Patrizia Quattrocchi e Serena Brigiti ci hanno spiegato che la violenza ostetrica si definisce attraverso una serie di comportamenti, di pratiche, in sostanza di un abuso di medicalizzazione, quindi di abusi sistemici, di abusi strutturali compiuti in modo intenzionale durante l'assistenza al parto e durante la nascita, nei confronti delle donne dunque e inevitabilmente anche dei bambini. Come se appunto il parto e la nascita costituissero delle patologie, o come se fossero sempre eventi a rischio, mai eventi fisiologici. Queste pratiche di cui parliamo sono pratiche evitabili, nel senso che non rispondono necessariamente a esigenze sanitarie, esigenze cliniche, sono prassi innecessarie e ingiustificate che possono avere conseguenze psichiche, fisiche, anche molto importanti sulle donne e anche sui bambini. Pensiamo alla mancanza di consenso informato, di cui ci parlerà anche Chiara, all'abuso di manovre, di induzioni e di esplorazioni vaginali. Ancora pensiamo al fatto che, secondo dei dati italiani, ci spiegavano Patrizia Quattrocchi e Serena Brigi della scorsa volta, più di un terzo delle donne subiscono dei tagli cesarei immotivati e più del 50% delle donne delle episiotomie, anche queste non necessarie clinicamente. Dati questi molto superiori a quelli dei paesi del nord Europa, dove si partorisce in tutt'altro modo. Ma insomma, la violenza estetica non è solo questo, ci si riferisce anche a maltrattamenti verbali, allo svilimento, all'infantilizzazione delle donne. Per esempio il fatto di dover sopportare il dolore, perché da che mondo è mondo tutte partoriscono, è dunque un processo naturale tra virgolette per cui non ci si deve lamentare, o ancora il fatto di dover imparare subito a riconoscere il tipo di pianto del bambino, altrimenti non si è abbastanza capaci, cioè non si è madri sufficientemente buone. Ci stiamo riferendo appunto a un eccesso di medicalizzazione culturalizzato, anche se poi ogni contesto andrebbe analizzato per la sua specifica storia politica, sociale, storia sanitaria, per cui ogni ambito è una realtà a sé, questo vale la pena sempre ricordarlo, ma il fil rouge è il genere. Questi processi vengono agiti non su qualsiasi corpo, ma su quello delle donne. Anche in questo caso mi chiedevo, possiamo parlare di violenza di genere? Una violenza contro le donne? Oggi ne parleremo a lungo con la nostra ospite, con Chiara Quagliariello, fra qualche minuto. Tu che hai sangrato tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. insieme. Mamma, mamma, mamma, paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá, por tantas mamá, mamá. Todas las mamá. Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar, pero con fortaleza. Escúchame, mamá, mamá, mamá. Todas las Eccoci tornati ad Antropologica, io sono Miriam e siamo su Radio Onda Rossa 87.9 e oggi abbiamo con noi Chiara Quagliariello. Chiara, grazie tantissime per essere qui con noi, addirittura in presenza. Ciao a tutti e a tutti e grazie a voi per l'invito. Fantastico, noi siamo abituati al telefono, l'altra volta Serena c'è pure caduta da Barcellona, quindi la presenza è veramente un grande lusso. Allora, Chiara è un'antropologa, è una docente a contratto di antropologia in diverse sedi universitarie italiane, a Napoli, Firenze, Bologna, si occupa di antropologia medica e in questo ambito si occupa di salute sessuale e riproduttiva e di rapporti di genere, in particolar modo nelle migrazioni che provengono dall'Africa subsahariana. I terreni di ricerca, quelli che in antropologia definiamo lavori di campo, sono stati realizzati in Italia, in Francia, in Senegal e anche negli Stati Uniti. Ci interessa proprio qui menzionare, Chiara, un progetto che è realizzato nell'ambito di una borsa di studio postdottorale, la Marie Curie Global, Racialization in Reproduction, scusate, cioè uno studio focalizzato sui razzismi ostetrici in Europa e negli Stati Uniti, nei confronti delle donne migranti, sempre di origine subsahariane e afrodiscendenti. Quindi Chiara, la scorsa puntata, le abbiamo menzionate tante volte stasera, Patrizia Quattrocchi e Serena Brigidi ci hanno spiegato cosa si intende per violenza ostetrica. Ora, tu ti sei occupata e ti occupi ancora e soprattutto di donne migranti, ecco, ma possiamo parlare a tuo avviso di una violenza comune a tutte le donne, indipendentemente dalla loro origine, provenienza, dal loro percorso migratorio, paese europeo di approdo, europeo o comunque altri contesti di approdo, o secondo la tua esperienza ci sono delle differenze tra la violenza ostetrica e riproduttiva agita sul corpo delle donne autoctone e delle donne migranti? Te la pongo questa domanda perché vorrei esplorare meglio con te questo aspetto che nella scorsa trasmissione, per questioni meramente temporali, è rimasta un po' in filigrana. Risonanze e differenze. Risonanze sicuramente, quindi le violenze ostetriche sono delle violenze di genere, Contemporaneamente la classe delle donne non può essere intesa come qualcosa di unico, di monolitico. Dentro la classe delle donne ci sono tante tipologie e categorie di soggetti femminili. Essere una donna migrante, essere una donna afrodiscendente implica delle disparità, implica delle disuguaglianze, disuguaglianze materiali legate alle condizioni abitative, legate ai redditi economici, legate alla precarietà giuridica, avere o non avere dei documenti, ma anche al come si viene percepite, quindi essere percepita diversamente da parte degli operatori sanitari, non essere, no, una donna autoctona, quindi il modo in cui sono percepita implica anche come sono trattata da parte degli operatori sanitari, e questo al di là del capitale culturale, del livello di istruzione, diciamo dell'ambiente sociale di appartenenza delle donne non bianche, delle donne non autoctone, nel nostro caso appunto non italiane. Ecco che da una parte quindi sicuramente si può parlare di violenze parallele con un eccesso di medicalizzazione. L'Italia da questo punto di vista, diciamo, è veramente emblematica appunto con gli alti tassi di cesari, di induzioni, di episiotomia, ma dall'altra parte esistono tutta una serie di violenze specifiche esercitate e subite da questa categoria di donne di cui parliamo oggi. In particolare io vorrei parlare di quello che accade dalle cosiddette madri dalla pelle nera, che sono state al centro di tutte appunto le mie ricerche di campo che citavi prima e che rappresentano comunque un'importantissima percentuale della popolazione migrante che partorisce oggi in Italia, cioè le donne di origine subsahariana corrispondono al 28%, quindi è una popolazione, diciamo, abbastanza rappresentativa di tutti questi fenomeni di razzismo ostetrico che vorrei sottolineare. Una prima questione che mi preme davvero enfatizzare è l'accesso ai servizi, no? Stati Uniti, sistema privato, occorrono le assicurazioni, non tutti si possono permettere il diritto alla salute, siamo in un sistema universalista? Dipende. L'accesso ai servizi non è dato egualmente a tutte le categorie di donne. Se andiamo a vedere quello che accade nello specifico alle migranti di origine subsahariana, fanno meno visite in gravidanza, fanno meno ecografie, fanno meno visite mediche, quindi quell'ipermedicalizzazione di cui parlavamo in realtà non si applica completamente a queste popolazioni di donne che non hanno lo stesso accesso ai servizi sanitari, non hanno le stesse opportunità nel diritto di cura come le popolazioni autoctone. Questo, diciamo, si traduce anche nel fatto che loro vanno molto più spesso nei consultori, no? E qui si apre un altro tema molto importante, quello di lotta, quello di legati ai diritti sessuali e riproduttivi, svalutati nel sistema di salute pubblica italiana, costantemente oggetto di tagli dell'economia sanitaria, ecco che riacquistano un valore politico di fronte alla presenza di donne migranti. Ma questo che cosa implica? Implica anche una discontinuità spesso nelle cure di queste persone e anche nel fatto che i consultori non hanno, no, le stesse attrezzature mediche, gli stessi strumenti. Questo lo voglio dire perché se andiamo a guardare quelle che sono proprio le statistiche sanitarie, di fatto i tassi di ipertensione gravidica, di diabete, anche di mortalità materna sono molto più alti tra queste popolazioni rispetto alle popolazioni autoctone, quindi c'è un problema di salute pubblica urgente e importante da dover affrontare. La scorsa puntata avete parlato anche di IVG, questo è un altro tema caldo. In Italia è quasi impossibile avere un accesso nel sistema pubblico all'interruzione volontaria di gravidanza. Se sei una donna migrante è ancora più difficile, perché sei meno informata, perché hai meno accesso a questi servizi e perché avrai anche una stigmatizzazione da parte degli operatori sanitari. Quindi il modo in cui loro ti vedono è diverso rispetto alle donne di origine italiana. Quindi si viene a creare anche una concorrenza tra donne italiane e donne migranti rispetto a quei pochissimi servizi in cui è ancora possibile accedere all'IVG. La questione linguistica, avete accennato nella scorsa puntata a tutto il consenso informato. Ora, per poter essere informate, per poter dare consenso a tutta una serie di trattamenti, no, che avvengono sul corpo, di interventi che avvengono sul corpo femminile, occorre innanzitutto parlare una lingua che si comprende. Ora, nonostante il fatto che le donne migranti rappresentino il 20% delle donne che partoriscono i nostri servizi, quindi una presenza strutturale, poco si fa fino ad oggi per garantire questa possibilità di comprensione linguistica innanzitutto. I servizi di mediazione linguistica sono estremamente ridotti all'interno dei reparti di maternità, c'è molta poco attenzione a come vengono informate queste donne. Il tempo delle consultazioni non è lo stesso, si parla molto meno con queste persone, dando per scontato che tanto non capirebbero il linguaggio medico, per cui si va veloce. Si pensa anche che siano meno pericolose da un punto di vista medico-legale. Chi è la donna migrante che denuncerebbe mai un ginecologo? Per cui tutto questo discorso del consenso informato, che è sicuramente centrale nel dibattito delle violenze ostetriche, si applica in maniera diversa nel caso delle donne migranti, perché troviamo appunto una quasi impossibilità di comunicazione in molti casi. La mancanza di comunicazione non è soltanto linguistica, implica anche delle incomprensioni, chiamiamole così, interculturali. La rappresentazione del corpo, la rappresentazione della salute, la rappresentazione di come si fanno i bambini, no? Cioè come avviene il concepimento, non si declina allo stesso modo in tutte, lasciami passare il termine, le culture del parto, del mondo. Quindi un antropologo a cui tengo tanto, che è Maurice Godelier, dice: in moltissime società non basta un uomo e una donna per fare un figlio. Che cosa vuol dire? Che ci sono tantissimi agenti, visibili e invisibili, che possono contribuire nel bene e nel male a dare alla luce una gravidanza. Il modo in cui i rischi, quindi i pericoli associati a una gravidanza, si declinano non sono le stesse per molte donne di origine subsahariana rispetto a quella che è la logica biomedica euro-occidentale. Non ci capiamo, fondamentalmente. Una donna di origine senegalese che non fa l'amniocentesi perché pensa che il liquido amniotico sia l'alimento per eccezione, proprio per eccellenza, di cui si nutrono tutta una serie di esseri invisibili, sta proteggendo quel bambino. Mentre per noi, diciamo, non stiamo andando a ragionare su tutta una serie di prevenzione di rischi. Quindi lì dove noi vediamo un mancato pericolo, lei ci vede un pericolo. Tutto questo, diciamo, è difficile da poter prendere in considerazione se il tempo a disposizione per la comunicazione è poco e se un servizio di mediazione linguistica non è garantito. E poi un altro elemento fondamentale sono gli immaginari razzializzanti, no? Cioè tutta quella storia, diciamo, coloniale e postcoloniale che ci portiamo dietro, gli occhiali con cui noi guardiamo queste donne, queste madri, questi corpi materni neri. Questi stereotipi, questi immaginari conducono e producono moltissime violenze su questi corpi materni subsahariani. Da una parte abbiamo questa idea della madre nera come costantemente portatrice di potenziali malattie, potenziali infezioni, quindi particolarmente a rischio, no? E da qua una ipersorveglianza medica, quindi qui sì, l'ipermedicalizzazione che si applica, eccessivamente controlli, eccessivamente cesari. Però su questo punto io credo che ci sia una differenza importante rispetto al dibattito sulle violenze ostetriche, perché queste forme di violenze che subiscono le donne subsahariane dentro le parti di maternità in realtà sono un tassello di tante violenze subite da queste persone. Quindi quello è un elemento di un puzzle in cui le violenze sono costanti e permanenti anche al di fuori, no? Le violenze istituzionali, le violenze della polizia. Quindi il corpo nero è costantemente oggetto di violenza istituzionale e anche questo accade dentro l'istituzione ospedaliera. Un'altra differenza importante è la seconda rappresentazione che in molti casi si dà del corpo materno nero, questa volta inteso come più vicino alla natura, più capace di saper partorire da solo. La madre nera è costantemente immaginata dagli operatori sanitari come più vicina al mondo animale sostanzialmente, quindi capace di partorire non sul lettino ginecologico ma accovacciata a terra, capace di automaticamente allattare i propri figli. E su questo io credo che sia molto significativo il modo in cui queste persone vivano le proposte di demedicalizzazione del parto, che mentre per noi donne bianche euro-occidentali sono una forma di resistenza e di lotta contro le violenze ostetriche, in realtà per loro rappresentano esse stesse una forma di violenza. Le donne senegalesi con cui ho lavorato in Toscana, ad esempio, vivevano come una forma di razzismo la proposta delle ostetriche di partorire accovacciate, di partorire non disese sul letto, di utilizzare l'acqua come rimedio contro il dolore del parto, perché loro si aspettavano di trovare in Italia e in Europa la modernità tecnologica che non hanno nel paese di origine. Quindi anche l'idea che le nostre soluzioni contro le violenze ostetriche siano applicabili a tutte le donne è un concetto su cui dobbiamo ragionare in maniera molto critica. Certo. Madonna Chiara, quanti spunti mi hai dato, e avrei molte domande da porti. Inizio da qui, inizio da una pista. Parlavi di una percezione all'inizio, di una percezione diversa da parte degli operatori sanitari di queste madri subsahariane, di questi corpi neri. Mi chiedevo, parlavi anche di mediazione culturale, quindi della difficoltà di comunicazione, della violenza, dell'assenza della comunicazione, che non considera proprio la costruzione da un lato, la rappresentazione dall'altro del corpo femminile, della donna, anche del bambino, poi del puerperio, del parto, senza andare a toccare le tecniche di accudimento, quindi restando soltanto in questa fase di nascita. Mi chiedevo, ma a tuo avviso, proprio dalla tua esperienza, ma gli operatori sanitari italiani, lasciando un momento fuori la mediazione culturale, perché la lascio fuori perché è una professione ancora non professione, ancora non riconosciuta, con tutta una serie di problemi contrattuali oltre di riconoscimento soggettivo del lavoro che si fa, quindi per quello è molto complessa, per quello la lascio un attimo a un lato. Ma a tuo avviso l'operatore sanitario, il medico, l'infermiere, l'ostetrica, l'anestesista, che strumenti hanno per trattare, per accogliere, per prendersi cura di questi corpi neri, se ce l'hanno? Perché immagino che tu, cioè so che tu, oltre a l'esperienza enorme di ricerca, di varie ricerche che hai fatto, quindi di vari territori che hai attraversato come ricercatrice, come antropologa, hai anche avuto l'occasione di fare docenza, di fare formazione a questo personale, quindi, come dire, hai toccato con mano, non hai soltanto osservato, hai insegnato loro, hai trasmesso loro, hai avuto degli scambi credo molto interessanti. Quindi ti chiedo, a che punto siamo? Siamo in un punto critico, perché il dato altamente problematico che emerge appunto da tutti questi miei studi fatti anche al di là del contesto italiano, quindi anche nel caso francese, anche nel caso americano, quello che emerge è che in tutte queste realtà e anche al di là di quelli che sono le articolazioni dei sistemi sanitari, ad esempio in Francia non ci sono così tanti parti cesari, ma ci sono moltissime epidurali, quindi il parto medicalizzato in questo caso non è il parto tramite cesario, ma è il parto tramite parto analgesia. In questo caso, anche per esempio in Francia, quello che accade è che alle donne di origine subsahariana, o percepite come tali perché potrebbero tranquillamente essere delle afro-francesi, viene offerta molto meno l'epidurale, partendo dal presupposto che tanto queste donne sono più forti, più robuste, più capaci di sopportare il dolore del parto. Cosa voglio dire con questo? Che ovunque gli operatori bianchi razzializzano sostanzialmente questi corpi neri, riproducendo un'ottica, diciamo, di scienza viziata da tutte quelle conoscenze razziali, sostanzialmente biologiche razziali, che ancora oggi sono in vita. Quindi è necessario un lavoro di decostruzione di tutti questi immaginari, di tutti questi stereotipi, ancor prima di poter fare un lavoro di ponte interculturale, quindi ancor prima di poter immaginare una formazione. E da questo punto di vista l'antropologia potrebbe avere un ruolo fondamentale, perché noi non possiamo neanche immaginare che un'ostetrica che non ha tempo possa avere una formazione uguale a quella di un'antropologa che studia per anni e anni questo tipo di tematiche. Noi quindi abbiamo un ruolo applicativo e trasformativo sicuramente dei percorsi di formazione e di conoscenza degli operatori sanitari, ma occorre tutto un lavoro a monte proprio di decostruzione delle rappresentazioni di questi corpi che sono ancora estremamente attuali. Certo. E mi chiedevo mentre parlavi se questa percezione della razzializzazione, questa violenza subita dalle donne subsahariane o comunque dalle donne nere, mi colpisce, ma significativamente, quando chiami questi corpi corpi neri, perché hai ragione, c'è un immaginario dietro che costruisce ogni donna nera come una donna africana sostanzialmente. Quindi mi chiedevo, ma c'è una percezione di questa violenza subita, di queste violenze subite da questi corpi neri, che in Italia proprio in questi momenti, il puerperio, la nascita, subiscono dei processi di lattificazione quasi, passami, occidentalizzazione. Non so se hai avuto modo di non soltanto di osservarla, perché sì, ce lo stai dicendo, ma anche di raccogliere le narrazioni di queste donne e le loro percezioni di quanto subito. Da questo punto di vista è estremamente interessante come, per esempio, la categoria di violenza ostetrica non emerge mai nei loro racconti. Quindi io credo che una delle questioni che ci dobbiamo anche porre, no, è questa categoria fino a che punto è entrata nei vissuti e nelle percezioni dei vissuti anche delle minoranze, o è una categoria che, come dire, almeno in Europa, in Italia e in Europa, rimane privilegio in qualche modo di un'elite, possiamo dire, o comunque di donne sicuramente non razzializzate e non appartenenti alle popolazioni di cui stiamo parlando oggi. Nessuna delle donne, diciamo, di origine non autoctona con cui io ho parlato ha definito la sua esperienza come un'esperienza di violenza ostetrica, sicuramente l'ha definita come un'esperienza di razzismo. E qui, diciamo, la categoria di razzismo ostetrico, che è stata introdotta nel dibattito in antropologia qualche anno fa, nel 2018, tenendo appunto insieme il concetto di violenza ostetrica e il concetto di razzismo medico, credo riassuma molto meglio quelli che sono le percezioni di vissuti da parte di queste popolazioni. Grazie Chiara per questa chiarezza. E ti faccio un'ultima domanda e poi ci interrompiamo con un piccolo stacco musicale. Ti volevo chiedere, quando dicevi, facevi riferimento prima alle IVG e quindi alla difficoltà di accedere da parte delle donne migranti proprio ai servizi per poter esercitare questo diritto, e mi è venuto in mente che soprattutto le donne europee non iscritte con il tesserino, diciamo con l'accesso ai servizi sanitari ENI, quindi europeo non iscritto, non possono accedere de iure proprio alle IVG se non per ragioni sanitarie, meramente mediche. Quindi mi chiedevo ragionavo, non ho mai ragionato in questi termini rispetto alle donne migranti, molto invece sui nostri corpi autoctoni, perché la difficoltà mi sembra trasversale, ma ecco, invece rispetto alle donne migranti di più, è ancora più complessa la questione, perché allora il livello immagino che sia veramente molto alto, ovvero molto basso. Ti faccio l'esempio delle donne di origine nigeriana che ho incontrato in Sicilia. Le donne di origine nigeriana, provenienti da un percorso migratorio terribile, perché stiamo parlando di percorsi migratori attraverso il Mediterraneo centrale, quindi con percorsi di gravidanza non voluti nella maggior parte dei casi, in pochissimi occasioni sono riuscite a interrompere la gravidanza in Sicilia. Cioè, questo che cosa vuol dire? Che pur per ragioni medicalmente sostenibili, perché delle gravidanze appunto risultato di violenze e di stupri sulla rotta libica e poi successivamente, diciamo, in tutto il percorso che loro hanno fatto fino al Mediterraneo, comunque non erano elegibili sufficientemente per poter accedere alle IVG, proprio perché migranti e proprio perché nigeriane. Quindi lo stigma della nigerianità in questo caso giocava un peso maggiore rispetto al bisogno sanitario. Quindi siamo ancora in un contesto in cui si applicano delle essenzializzazioni sostanzialmente su questi corpi materni non bianchi, che vanno al di là di quelle che sono anche i diritti sanitari. Certo. Grazie Chiara. Casse l'ambiance en soirée, la terreur avec qui on peut même plus rigoler, l'hystérique qui bouffe du mec au petit déjeuner. Je suis la sorcière au bûcher, je suis suis la menace qui fait la une de valeur. La dangereuse qui ne pense qu'à protéger ses sœurs. Je suis celle qui met la fachosphère en sueur. Qu'est-ce qu'il y a, tu crois que tu me fais? J'ai été rabaissé, humilié, agressé, frappé. J'ai été vilipendé, harcelé, cancelé, catcolé, insulté, touché contre mon gré. Si jamais je m'en remets, on doutera de ma vérité. J'ai été dégradé, déprécié, dénigré, écrasé, discrédité, méprisé, attaqué et blessé, toujours sous-estimé. Si jamais je l'ouvre pour témoigner, on chira sur ma vérité. Tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Vas-y, allez. Crois bien qu'après tout ça, je suis prête à tout encaisser. Vas-y, allez. Bah quoi mon grand, qu'est-ce que t'attends? Le courage c'est maintenant. Et si jamais tu oses, c'est avec joie que je serai une martyre de la cause. Qui censure la culture, la matriarche extrémiste ravageant l'écriture, la délinquante véhémente que craignent les ordures. Je crache ma haine des pourritures. Je suis la gynocrate assoiffée de vengeance, présomption d'innocence contre légitime défiance. Je suis la folle castratrice avide de violence. Bienvenue dans la résistance. J'ai été rabaissé, humilié, dénigré, écrasé, discrédité, harcelé, cancelé, méprisé, insulté et blessé. Tu peux toujours tenter de museler, rien ne pourra jamais m'arrêter. Alors vas-y, allez. Qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Vas-y, allez. Crois bien qu'après tout ça, je suis prête à tout encaisser. Vas-y, allez. Ben quoi mon grand, qu'est-ce que t'attends? Le courage c'est maintenant. Et si jamais tu oses, c'est avec joie que je serai une martyre de la cause. Bentornate, bentornati ad Antropologica, la trasmissione interamente dedicata all'antropologia di Entropia Massima. Siamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. E torniamo qui in voce, in presenza con Chiara Quagliariello. Chiara è una ricercatrice, un'antropologa, una docente di antropologia, abbiamo detto in varie università italiane, e con lei oggi continuiamo a parlare di violenza ostetrica. Ma soprattutto Chiara ha introdotto un concetto che mi è interessato molto, che è quello di razzismo ostetrico, e, del quale poi ti vorrei chiedere alcuni ragguagli. E mi chiedevo, Chiara, sulla base di quello che abbiamo detto finora, quindi di violenza riproduttiva, di corpi neri, di violenza percepita, di razzismo percepito su questi corpi, come interviene l'antropologia? Cioè, come l'antropologia può essere utile? O ancora, che strumenti può dare alle donne? Che strumenti può dare, come accennavamo prima, agli operatori sociali, agli operatori sanitari? Che ricadute, come posso dire, che ricadute può avere l'antropologia in termini di diritti, di salute per queste donne? Innanzitutto mi piacerebbe tornare su questo concetto di razzismo ostetrico, perché è un concetto contemporaneo, nuovo, introdotto da Dana Indevis, con cui ho avuto il piacere di lavorare appunto durante il progetto Marie Curie che citavi prima, negli Stati Uniti, antropologa afrofemminista, che introduce nel 2018 su un articolo apparso su Medical Anthropology per la prima volta questo concetto, sottolineando la storia lunga di razzismo ostetrico in realtà e di discriminazioni subiti da donne portatrici di corpi neri. Quindi quello a cui noi stiamo assistendo oggi, cioè il fatto che queste persone hanno i tassi di mortalità materna più alti in tutti i paesi d'Europa, oltre che negli Stati Uniti, rispetto alle donne non nere o non razzializzate come nere. Il fatto che queste persone hanno delle patologie in gravidanza più importanti è a suo avviso ascrivibile a una storia lunga di discriminazioni. Se pensiamo a quello che accade rispetto alle sterilizzazioni forzate, per esempio, subite su questi corpi riproduttivi neri in passato, ma anche in un passato molto recente, gli anni 70, gli anni 80 negli Stati Uniti, gli anni 90 in alcuni dipartimenti di oltremare francese, penso all'isola della Réunion, penso anche all'attuale dibattito che in questo momento c'è in Francia sul réarmement démographique, cioè quello che è la preoccupazione, no, dell'inverno demografico che abbiamo anche noi d'altra parte in Italia, con cui si vuole andare a riprodurre che tipo di nazione? Una nazione bianca, una nazione sicuramente non fatta di soggetti non autoctoni o non percepiti come tali, e quindi c'è tutta una storia lunga che, diciamo, si ritraduce anche nelle forme di violenza ostetrica che attualmente, diciamo, subiscono questi corpi materni neri. Quindi la categoria di razzismo ostetrico mi sembra comunque chiave per analizzare quello che accade effettivamente alle madri non bianche all'interno dei nostri reparti di maternità. In tutto questo l'antropologia ha un ruolo fondamentale, a mio avviso, è una disciplina che non solo ha un potere, diciamo, analitico e politico, perché può portare nel dibattito pubblico questo tipo di categorie, come ha fatto appunto Danine Davis, che ha coniato questo tipo di categoria, ma può anche fare da ponte, cioè può costruire, può co-costruire, può partecipare alla costruzione di un dialogo tra donne migranti e operatori sanitari, no? Può aiutarsi a capirsi a vicenda, al di là delle barriere linguistiche. Quindi l'antropologia ovviamente non può contribuire a farle superare queste barriere linguistiche, questo è il ruolo dei mediatori linguistico-culturali, e questo lo fanno questi colleghi e questi professionisti. Quello che facciamo noi può essere aiutare appunto in quel lavoro di decostruzione costante e permanente di quegli immaginari, di quegli stereotipi, di quegli occhiali con cui gli operatori sanitari spesso anche in maniera incosciente guardano e ragionano e quindi trattano i corpi materni non bianchi. D'altra parte l'antropologia può aiutare a una trasformazione delle pratiche, cioè proprio ai modi in cui i servizi sono organizzati, gli orari in cui si viene chiesto, no, di andare nell'ambulatorio, che magari non sono orari compatibili con quelle condizioni materiali che descrivevo prima, a cui appunto sono costrette tutta una serie di popolazioni non autoctone, penso alle donne che vivono nei centri di accoglienza e che dipendono fondamentalmente dagli operatori di questi centri per raggiungere, no, i posti in cui andare ad accedere alle cure mediche. Penso anche alle pratiche che molto spesso queste persone portano dentro gli ospedali, no? Le protezioni per evitare che queste gravidanze non vadano a buon fine, no? Quindi bisogna proteggere questi bambini, bisogna portare degli amuleti, per esempio. Chi glielo spiega agli operatori sanitari che cosa è quell'amuleto, a che cosa serve, perché è importante per quella donna fare l'ecografia e contemporaneamente indossare quell'amuleto? Chi glielo spiega all'operatore sanitario che occorre mangiare un determinato tipo di alimento subito dopo il parto, perché quell'alimentazione, in base a una simbologia del corpo di un certo tipo, può copartecipare a un buon allattamento? No, c'è una questione di genere, non si possono introdurre alcune pietanze. Queste forme invece di pluralismo, in qualche modo medico, messe in atto dalle donne migranti, possono e devono essere spiegate dagli operatori sanitari a chi le studia queste cose. Quindi gli antropologi possono avere un ruolo trasformativo proprio nelle pratiche, in modo da fare, diciamo, da aiutare, da agevolare l'introduzione e l'apertura ai bisogni di cui sono portatrici e anche delle tradizioni, lasciami passare il termine, di cui sono portatrici appunto le donne non autoctone. Penso che l'antropologia possa anche smussare le conflittualità, possa anche partecipare a, in qualche maniera, a pensarci questa volta, no? Tutti tutte impegnate in delle lotte che hanno a che fare, questa volta sì, con le violenze ostetriche, quindi andando al di là di quelle che possono essere le appartenenze tra donne autoctone e donne non autoctone. L'antropologia può andare oltre. Ti porto il caso di Lampedusa, su cui appunto io ho scritto un libro, L'isola dove non si nasce, in cui io metto a confronto la situazione delle donne di un territorio italiano, che è l'isola di Lampedusa, a cui noi pensiamo solo e soltanto in termini di emergenza migratoria, dove le donne del posto non hanno un luogo in cui partorire. Questa è una forma di violenza istituzionale che queste donne subiscono e che si traduce in una concorrenza con le donne migranti, che sono percepite come delle nemiche a cui si offre di più, perché lo Stato, attraverso i trasferimenti della prefettura, attraverso tutta una serie di dispositivi della frontiera, gestisce questi corpi, mentre non si occupano delle donne di Lampedusa. Il lavoro di antropologia simmetrica che io ho portato avanti a Lampedusa ha trasformato la percezione di questo tipo di doppia ingiustizia riproduttiva vissuta tanto dalle donne di Lampedusa quanto dalle migranti su quest'isola. Quindi l'antropologia può fare ponti non soltanto tra gli operatori sanitari e le donne migranti, ma anche tra noi stesse, donne bianche privilegiate, e le comunità di donne non autoctone. Grazie Chiara, veramente, per la tua chiarezza soprattutto. Cosa ci si fa con un antropologo, con un'antropologa? Dove possiamo essere ubicate? Spesso quando rifletto sul mio ruolo, sul nostro ruolo da donna, da antropologa appunto, sento parlare intorno a me spesso di sfida. La sfida di avere delle antropologhe, degli antropologi vicino a noi in termini, in contesti sanitari. A me ormai, probabilmente per una percezione piuttosto viziata, visto che si tratta di me stessa, sembra piuttosto una condizione sine qua non. Cioè l'assenza, ho sempre rifletto negli ultimi anni sul fatto che senza antropologia, soprattutto in un contesto come quello che stai descrivendo, si rischia di parlare di incuria. Quindi è vero che è un sapere ancillare, quello dell'antropologia, è anche una pratica altrettanto ancillare, ti chiedo. Non dovrebbe esserlo perché c'è bisogno di antropologia quanto c'è bisogno di competenze ostetriche, c'è bisogno di antropologia quanto c'è bisogno di interventi tecnici. Quando tu hai a che fare con delle persone provenienti da altri contesti del mondo o comunque familiarizzate con tutta una serie di idee, pratiche, forme di stare al mondo che sono diverse o parzialmente diverse dalle nostre, combinate insieme alle nostre, è lì che l'antropologia, proprio per la sua natura comparativa, ti può aiutare. La dimensione comparativa è importante, a mio avviso, per due motivi. Uno, perché ci permette e permetterebbe agli operatori sanitari, quello che io cerco di fare, di farli uscire da una percezione, diciamo, della colpa, come se questo accade soltanto nel reparto di Poggibonsi, dove io ho lavorato con le donne senegalesi, o accade soltanto nel reparto di Lampedusa, dove io appunto ho lavorato con le donne di origine nigeriana, o accade soltanto nel reparto di Parigi, dove io ho lavorato con le donne di origine maliana, o accade soltanto a Mayotte, dove io ho lavorato con le donne di origine comoriana, o accade soltanto a New York, dove io ho lavorato con le afrodiscendenti. No, accade ovunque. Quindi questo che cosa vuol dire? Che c'è un problema globale. Quindi innanzitutto l'antropologia può permettere, attraverso questa comparazione di casi studio, di illuminare, diciamo, le menti e aprire gli occhi degli operatori sanitari, facendogli fare un passo indietro e chiedendosi come mai ovunque, al di là del fatto che i servizi di maternità sono universalmente accessibili, non sono universalmente accessibili, si fanno tanti cesari, si fanno più epidurali, comunque sia, quando si tratta di donne migranti di origine subsahariana accadono tutta una serie di cose. Quindi da questo punto di vista, diciamo, l'antropologia può svolgere un ruolo di svelamento di una serie di dinamiche che sono spesso trasversali, quindi non che dipendono dal singolo operatore, ma che sono sistemiche fondamentalmente, proprio perché ancorate in una percezione euro-occidentale del corpo materno non bianco, risultato di una storia lunga che è quella poi di fatto del colonialismo. Certo, immagino la difficoltà che abbiamo, la viviamo quotidianamente, di chiedere di lasciarci dei campi di azione, soprattutto in ambito sanitario, che è un ambito, riprendo il concetto di colonialismo, come dire, già colonizzato, ampiamente colonizzato da tutta una serie di professionalità. Quindi se da un lato, cogliendo le tue parole, si tratta di farci spazio e di accogliere altre figure professionali, di immaginare altri spazi da parte degli operatori sociali e sanitari, dall'altra si tratta di far sì che questo immaginario venga costruito, venga edificato a livello proprio culturale occidentale, passami sempre questo macro concetto d'Occidente, anche dai datori di lavoro. Quindi anche contrattualmente bisogna immaginarlo questo spazio, cioè quanto costa un antropologo, quanto costa una nostra consulenza, una nostra riflessione, una nostra docenza, una nostra formazione, e soprattutto quanto costa in vari termini anche morali oltre che economici immaginarci anche indipendentemente dalle donne di cui ci stai parlando, dalle donne nere, dalle donne migranti, perché si tratta poi di corpi che vengono, come dicevi tu prima, estremamente culturalizzati attraverso la nostra lente, questo prisma deformante, perché è guardato appunto con altri occhi. Assolutamente sì, ci servirebbe un'antropologa o un antropologo almeno in tutti i reparti di maternità, nei consultori e appunto in tutti quei luoghi che sono frequentati appunto dalle popolazioni non autoctone. Tu hai detto qualcosa di molto importante: noi dobbiamo sicuramente lottare per avere un riconoscimento professionale per le competenze appunto di cui disponiamo, in un dialogo costante e permanente con gli operatori sanitari. Quello che noi non dobbiamo e non possiamo fare è sostituirci alla voce di queste persone. Cioè, noi siamo dei facilitatori di questo dialogo, noi possiamo costruire dei ponti. Per fare questo ci vuole tempo. Io sono riuscita a creare, per esempio, un ponte tra la comunità delle donne senegalesi del Val d'Elsa e le ostetriche e i ginecologi del reparto di Poggio e Bonsi dopo 7 anni di lavoro in quel territorio e in quel reparto, quindi costruendo un rapporto di fiducia sia con gli operatori da una parte sia con le donne, diciamo, della comunità senegalese. Ma il lascito è che poi ovviamente quando un antropologo se ne va, perché noi siamo anche spesso a progetto, quindi c'è anche questa questione della mancata presenza strutturale all'interno dei reparti, all'interno dei servizi. Lavorare a progetto vuol dire anche seminare senza poter poi raccogliere tutta una serie di frutti e di potenziali percorsi di co-costruzione, di prevenzione sanitaria, di lotta a tutta una serie anche di rischi prenatali, eccetera. Quindi sicuramente l'antropologia può e deve avere un ruolo applicativo in termini di salute pubblica, ma non dobbiamo neanche mai dimenticarci che ci sono tantissime forme di resistenza e di mobilitazioni dentro le comunità di cui abbiamo parlato oggi. Queste persone, proprio perché subiscono queste forme di razzismo ostetrico, portano avanti tutta una serie di pratiche che possono essere o quelle di medicine parallele, che devono a quel punto, no, essere anche interpretate bene dal punto di vista degli operatori sanitari, quindi rispetto a questo sincretismo che io descrivevo prima. Quindi non è che una donna non ci vuole venire nel tuo ambulatorio, ma la sua pratica diversa ha un valore e un senso tanto quanto quell'offerta biomedica che tu gli stai proponendo. Quindi non si deve mai poi scadere in una specie di gerarchizzazione dei percorsi terapeutici, ma ci sono anche tutta una serie di lotte portate avanti in questo momento, lotte che da una parte sono anche state influenzate in qualche modo da tutto il movimento dei corpi neri, il Black Lives Matter, che ha preso anche una declinazione sui corpi materni, Black Maternal Life Matters, che arriva in questo momento in Europa. Stanno diffondendo tantissimo anche le figure delle doula, per esempio, che sono delle doula, quindi sono delle figure non sanitarie appartenenti alle comunità afrodiscendenti o comunque migranti di origine subsahariana, quindi non più quelle donne anziane che erano in qualche maniera titolari di saperi tra virgolette tradizionali, ma proprio delle persone che fanno da ponte rispetto agli operatori sanitari che difendono i diritti riproduttivi di queste donne. Questo è qualcosa su cui secondo me occorre ragionare seriamente. Le doula sono combattute dal punto di vista proprio sanitario da parte delle ostetriche e da parte dei ginecologi come se fossero delle nuove concorrenti all'interno della arena sanitaria, mentre potrebbero rappresentare, nel caso specifico delle comunità non autoctone, dei ponti con cui poter appunto dialogare per cercare di capire, uno, come vengono percepite proprio queste forme di violenza, di razzializzazione, di disuguaglianza, di discriminazione che subiscono queste comunità, e anche come poter andare avanti. Quindi tante cose si muovono comunque, quindi l'antropologia deve anche essere abile a seguire queste tendenze contemporanee attraverso un'ottica, diciamo, di accompagnamento e non di sostituzione del ruolo di quelle che poi sono le protagoniste di questi processi. Sì, in effetti l'antropologia, soprattutto questa antropologia costantemente in scadenza, questa progettualità più o meno lunga, porta con sé delle notevoli complessità, non soltanto per chi la agisce, cioè per l'antropologo e l'antropologa che lavora e che a un certo punto si trova senza contratto, da un'altra parte perché sa che sta investendo in forma limitata su un certo tipo di lavoro i cui obiettivi potrà vedere realizzati o meno i propri obiettivi, sia perché si sta portando avanti un progetto che la cui sostenibilità è in forze. Mi chiedevo, perché è una cosa su cui ho riflettuto negli ultimi anni, se anche tu hai notato una differenza sostanziale fra il ricercatore, docente universitario che fa docenza, che fa ricerca di campo in contesti ospedalieri, in contesti sanitari, andando a fare un campo e quindi portando una lente di un certo tipo e potendo gestire i dati in un certo modo, essendo colui o colei che possiede i dati che raccoglie, al contrario invece dell'antropologo professionale di cui stiamo parlando, che cerca di fare una professione, che il lavoro di campo, che l'etnografia, il proprio metodo, lo agisce all'interno del proprio posto di lavoro. Parliamo di un posizionamento molto differente. Ora, senza entrare troppo nel merito perché il tempo stringe, ma che ne pensi di questa, come dire, di questa dualità? Perché poi è un po' dicotomica alla fine, per questo parlo di dualità. Allora, io sono una di quelle che è estremamente convinta nella possibilità di un dialogo costruttivo tra quello che sta dentro e fuori l'accademia. Io ne sono parzialmente un esempio perché faccio più antropologia, chiamiamola così, universitaria, ma ho sempre cercato di restituire, di stare nei processi di cambiamento al fianco degli operatori sanitari. Certo, la questione della restituzione non si pone ovviamente nello stesso modo se tu hai una libertà, diciamo, di interpretazione di quel dato, o se fai parte di una routine e quindi quel dato lo contribuisci a produrre in qualche modo. Quindi se sei un'antropologa incardinata dentro un reparto, avrai anche quella distanza, diciamo, analitica che chi arriva da fuori, come faccio io, può mettere a fuoco. Quindi la situazione è complessa, ma sicuramente le due figure, a mio avviso, andrebbero entrambe valorizzate e messe in dialogo. Sei stata veramente molto esaustiva e quindi non posso non porti, ma anche se non lo fossi stata, ma lo sei stata, ti pongo l'ultima domanda che pongo a tutte e tutti coloro che partecipano alla nostra trasmissione. L'antropologo, infine, non è un lavoro per? Per chi non riconosce nell'incontro con le differenze un'occasione di crescita. Grazie. Pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento. Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento. É covardia no momento quando ele levanta a mão. Ela vai, ela vem. Meu Diversão é um conceito diferente, onde todas as partes envolvidas consentem. Silêncio é um grito de socorro escondido pela alma, pelo corpo, pelo que nunca foi dito. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber. A dor é sua, a culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer. E o cinismo obtuso daquele cara confuso, mas eu vou esclarecer. Abuso. Na porra. Violência por todo mundo, a todo minuto, por todas nós, por essa voz que só quer paz, por todo luto, não quer demais. Desrespeitada, ignorada, assediada, explorada, mutilada, destratada, reprimida, explorada, mas a luz não se apaga. Digo o que sinto, ninguém